Metti un periodo buio lì senza amore, in cerca di una notte fatta per te, e fai di tutta la tua vita un bicchiere, e aspetti un'alba che ti porti a dormire. Ed è malinconia, ti segue per la via, ti lascia dopo un'ora, ma tu sai che torna ancora. Metti un amico che ora deve partire, probabilmente non si fa più sentire, non sai se piangere o provare a scherzare, non dici niente, hai mille cose da dire. Ed è malinconia a farti compagnia, ti dà sempre ragione, ma in cambio poi chissà che vuole. Ed è malinconia, un'ora che va via, ho un anno da scordare, da soli in fondo ad un locale. Metti che un giorno all'improvviso per strada ti chiedi se è soltanto questa la vita. Parli una lingua che per gli altri è sbagliata, anche restando a 100 metri da casa. Ed è malinconia, amica o no che sia, è quello che ti resta quando il mondo non ti basta. Adesso dopo tante parole, dietro la porta chi ti aspetta è l'amore. Cosa puoi fare? Era già tutto previsto, in fondo è chiaro, noi viviamo per questo. Metti che il mondo per un mese un istante di te si scordi quasi completamente, le sere che a casa solo da cane mangi qualcosa da